gossip. Chi legge quei giornali ha problemi mentali grossi. Trucida, conduttrici da casi umani commossi. Tutti validi ossi, nelle mani di orsi. E non è ben total, non si addormenta, ma di notte non ci vesta nella webcam. Non frequenta San Pietro nella Mecca. Per lei chi si crede Dio pecca di immodestia. E non avrà pietà di gatte morte, fissate con l'età e solite solfe. Detesta il VIP che fa il fotoreporter, terrebbe le sue fan sotto revolver. Lei è sanguigna, senti che i denti di grigna. Cenerentola da una sventola alla matrigna. Ma non le va la scarpetta, lei fa la scarpetta, che se mette pancetta non frigna. Ed io non sono Ulisse, io non so resisterle. Non sono Ulisse, io non so resisterle. Slegatemi e gettatemi giù. Slegatemi e gettatemi giù. Non sono Ulisse, io non so resisterle. Non sono Ulisse, io non so resisterle. Slegatemi e gettatemi giù. Slegatemi e gettatemi giù. Passeggiare sulla spiaggia con te, Ilaria. Grazie. Tieni, è un volantino del movimento, mettilo in tasca. Va bene, mia sirena. Calma, calma, calma! Mi spiegate cosa ho fatto?